9 in punto, la versione di Oscar. Ed eccoci qua come sempre con quinciando con il DOS, The End. Buon mercoledì 25 gennaio, Oscar Giannino vi saluta. La puntata di oggi, parentesi come sempre il santo, come spesso facciamo il santo, auguri a Gerardo. La puntata di oggi è dedicata ai fermi del trasporto, ai fermi dei TIR che secondo le agenzie anche oggi continuano nel Varesotto, nella Bergamasca, continuano fuori la Fiat di Cassino, continuano a scacchiera su posti strategici. Sapete, se avete dato un'occhiata ai giornali stamattina, che alcuni di essi titolano con TIR si muovono i prefetti. Questo per esempio è l'apertura del Corriere, del Corriere della Sera. Ieri c'è stato un incidente mortale, perché ad Asti un autotrasportatore di 46 anni, Massimo Crepaldi, è morto, lui apparteneva a coloro che bloccavano il traffico, è morto travolto da un TIR guidato da una collega, una camionista tedesca, Karin Jutta Becker, lei 52 anni, che non voleva fermarsi al presidio ed è stata arrestata con l'accusa di omicidio colposo. Come sempre, prima di presentarvi gli ospiti, brevissimo approfondimento sulle vicende della stampa europea relativi all'euro, che sono i motivi per cui noi teniamo questa canzone di End, in cui molti iniziano a cambiare idea sul fatto che sia troppo pessimista, dicendo in effetti ogni giorno troviamo nelle cronache del nostro paese, negli andamenti dell'euro, qualche cosa che ci conferma nell'idea che forse la canzone non è proprio così fuori luogo. Qualcuno mi ha mandato un sms dicendo ma fa venire anche il terremoto. Adesso non esageriamo, perché non ho assolutamente di questi poteri. Avete sentito la breaking news, in caso di novità ci interromperanno i colleghi del giornale radio. Devo dire che stanotte, quando c'è stata l'una e 18, l'una e 19, è stato un bel ballo per me, che ero all'ultimo piano, si sentiva molto sensibilmente in alto qua a Milano. Allora, brevissimi flash dal Euro Notizie, per così dire. Il Financial Times ha un lungo articolo in relazione alle pressioni del fondo monetario. Perché cosa? Perché siccome c'è la trattativa in corso tra i bond holder, i detentori dei titoli greci, e la Grecia sulla percentuale di abbattimento del loro valore, ve ne ho informato tutte le mattine, una questione abbastanza analoga c'è in relazione ai circa 40 miliardi di valore dei titoli greci che sono detenuti dalla Banca Centrale Europea. C'è nell'articolo Financial Times, trovate la descrizione di come il Governing Council della Banca Centrale Europea ha discusso vari scenari in relazione esattamente a questa quota dei 40 miliardi, se o meno allinearsi alla posizione, in altre parole, dei detentori di titoli privati. Il Fondo Monetario Internazionale, che come vi ho detto è molto impegnato per evitare che la Grecia faccia dei passi unilaterali che porterebbero conseguenze a catena del tutto fuori dalla possibilità di un agevole controllo, sia dal punto di vista della tenuta dell'euro, perché la cosa si sposterebbe immediatamente su altri paesi, a cominciare dal Portogallo, sia per l'effetto che tutto questo avrebbe ulteriormente sulla crescita mondiale, e l'America non lo vuole nell'anno di elezione di Obama. E il Fondo Monetario ha detto alla BCE, secondo Financial Times, che questo previsto piano, che in totale ammonta a 130 miliardi di cash di sostegno sul totale del debito pubblico greco, di aiuti ad Atene, non è più sufficiente per arrivare al rapporto di 120% debito PIL entro il 2020. Io credo che, siccome il rapporto sarebbe sicuramente superiore per via della recessione, la posizione greca sia non solo comprensibile, ma ancora adesso al di fuori di aver trovato una soluzione ragionevole, soprattutto quando si tratta di affrontare un semi default pilotato. Allora il debito pubblico deve arrivare in un semi default di questa percentuale a proporzioni sul PIL dell'80-70% presto, non arriva, non resta al 120% ancora per 10 anni quando un paese è in recessione. Finché queste sono le cose di cui si parla nell'Euroarea, vuol dire che non si ha la consapevolezza, non siamo sul pianeta Terra, si continua a stare sul pianeta Marte. Brevissimamente, Le Monde per la prima volta ci informa di cosa farebbe Sarkozy se perdesse le elezioni, il che vuol dire che, siccome sono citate espressioni del presidente francese, che l'ipotesi diventa sempre più realistica. Lascerebbe la politica e con ogni probabilità accetterebbe un incarico nelle imprese di uno dei suoi più grandi amici, Martin Boix, che è un grande imprenditore che ha un impero che sta a cavallo tra le costruzioni e i media. Le Monde, in un articolo a fianco, approfondisce la china oramai sempre più ripida che l'OMP, il partito di Sarkozy, deve affrontare per tentare di contrastare il progresso di Hollande, che oggi oramai è in vantaggio rispetto al presidente francese. Poi Germania, Frankfurter Allgemeine Zeitung ci informa che nella coalizione di Angela Merkel oramai si sia rassegnati al fatto che il fondo salva stati debba aumentare la sua dotazione finanziaria, e però i partiti della coalizione sono d'accordo col cancelliere: bisogna assolutamente evitare qualunque dibattito pubblico in materia. Ancora Frankfurter Allgemeine Zeitung ci dà un insight dalla Banca Centrale Europea, che è relativo al fatto che il nuovo chief economist della Banca Centrale Europea, Peter Praet, colui che è successo a Jürgen Stark, il tedesco che se n'è andato sbattendo la porta, contrario all'acquisto di titoli pubblici di paesi in sospetto di contagiare gli altri come l'Italia. Ecco, Peter Praet ha avvisato che le attese di un ulteriore abbassamento dei tassi di interesse da parte della BCE di altri 25 punti base prima dell'asta straordinaria di fine febbraio potrebbero rivelarsi infondate. Come si vede, Peter Praet ha aderito immediatamente alla tradizione di istituto, per così dire. Infine, sul Financial Times, Robert Zelig, un'altra delle importanti figure a cavallo dal WTO, Fondo Monetario, insomma uno dei nomi di punti di riferimento dell'economia internazionale, fa una proposta ai tedeschi, quella di estendere il fiscal compact di cui si sta parlando in adozione dell'intesa dell'8 dicembre, estendendola al lavoro, con procedure di unificazione dei mercati del lavoro in Germania, o almeno che rendano possibile la mobilità, una maggior mobilità dei mercati del lavoro. Mi sembra una proposta, devo dirvi, molto intelligente, finché restiamo con mercati del lavoro separati, con curve di costo così diverse. Come è evidente, le divergenze di produttività restano così forti che avere un'unica moneta, quando le cose vanno male, si rivela un grande problema. E quindi questa proposta di Robert Zelig sul Financial Times, secondo me, apre l'attenzione su una questione fondamentale sulla quale nell'euroarea si è colpevolmente trascurati. Fine della parentesi sulla questione dell'euro e entriamo immediatamente nel blocco del trasporto. I titoli in questi giorni sono stati molto duri, i giudizi del più dei giornali sono stati allineati al fatto che i padroncini della mobilità, perché soprattutto la parte dei padroncini della categoria che sta protestando con sigle come quella di Trasporto Unito, non hanno il diritto di paralizzare l'Italia. Il titolo di Repubblica, per esempio, di ieri era: tir selvaggio paralizza l'Italia. Il Messaggero oggi ha un titolo tra virgolette: stop ai blocchi dei tir, il governo rassicura Unione Europea, interverremo, forti disagi per lo sciopero, allarme per i rifornimenti di alimentari e benzina. Allora, per capire un pochino meglio le ragioni di chi protesta, abbiamo con noi degli esperti, a cominciare dal mio, per così dire, sodali delle diverse cose che faccio, cioè il condirettore della rivista Capo Orno, mensile, che è specializzato proprio nelle questioni di trasporto, logistica, reti e infrastrutture, di cui ahimè sono condirettore anch'io, e lui è Bruno Dardani, ma è molto più esperto di me in queste cose e quindi ci aiuterà a capire un pochino ragioni e, per così dire, anche un po' geografia delle sigle dell'autotrasporto italiano. Buongiorno e grazie Bruno Dardani. Buongiorno a te. Poi abbiamo Maurizio Longo, che è uno insomma di coloro che ha più responsabilità nei confronti del blocco, perché è stata la sua sigla sindacale, quella che guida Trasporto Unito, a organizzare il fermo del trasporto, ed è una delle più determinate nel difendere le ragioni rispetto ad altre sigle che invece non sono molto d'accordo, e soprattutto le altre sigle hanno un rapporto più diretto con la politica, perché stiamo parlando di altre sigle come quella del FAI di UG, che ai tempi del governo di centrodestra aveva un rapporto diretto, per così dire, attraverso anche l'ex sottosegretario Bartolomeo Giachino, e forse per questo anche che nel sottogoverno di centrodestra proteste di questo tipo non le abbiamo avute. Comunque è con noi Maurizio Longo, buongiorno e la ringrazio. Buongiorno, grazie a voi. E poi abbiamo Matteo Mauri, che è responsabile trasporti del Partito Democratico, e ringrazio anche Mauri, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dardani, ci spiega un pochino, per chi non è un addetto ai lavori e non si orizzonta nelle sigle dell'autotrasporto italiano, poi andiamo direttamente a chiedere a Longo ragioni, durata, intensità ulteriore di questa protesta, ma che cosa sta succedendo e perché? Perché apparentemente i giornali hanno scritto nei primi giorni che l'80-90% delle sigle non erano d'accordo, dicevano che dopo l'incontro col governo dell'11 di gennaio quanto scritto nel decreto firmato dal capo dello Stato recepisce i termini che erano stati illustrati tra governo e categorie, e tranne il fatto che poi in realtà poi il paese è bloccato, quindi evidentemente non deve essere proprio questo 80-90%, oppure no, ci aiuti, ci spieghi chi è in piazza e rispetto a chi non c'è e perché, Dardan. Ma io intanto vorrei spiegare cos'è l'autotrasporto come prima battuta, perché forse anche i cittadini che subiscono anche i disagi dell'autotrasporto devono rendersene conto. E poi vorrei fare una piccola considerazione sulla grande contraddizione. Allora, l'autotrasporto, parliamo di 115.000 all'incirca aziende, un 400.000 addetti, 53.000 aziende chiuse negli ultimi 6 anni. Il 50% delle aziende operative oggi clinicamente morte, cioè finanziariamente non in grado di stare in piedi, con un debito medio a carico di ogni azienda che supera i 200-250 mila euro. Questo è il quadro del trasporto. Però il trasporto su gomma assicura il 90% delle attività industriali, delle attività di distribuzione delle merci sul territorio italiano. Ora, c'è una grossa contraddizione. Se dal 2000 al 2007 ci sono stati 3 fermi, grandi fermi dell'autotrasporto, dal 2007 ad oggi c'è uno stillicidio di scioperi, proteste ogni anno, perché con questa categoria, che certo non si diverte ad andare in piazza, non voglio fare una difesa di corpo, ma è una categoria. Un giorno un amico mi ha detto: sono i nuovi minatori, per i livelli di vita che sono costretti ad affrontare. Insomma, c'è una contraddizione di fondo. Vorrei fare un paragone molto comprensibile anche ai non addetti ai lavori. Se io ho dei figli, come io, e devo scegliere una babysitter, perché è fondamentale per me affidare dei figli a una persona affidabile, la pago bene e la scelgo con attenzione. Ora, se il trasporto su gomma assicura il 90% del trasporto delle merci, e se 12 ore di blocco, perché tante sono state all'inizio, bloccano stabilimenti come la Fiat, svuotano tutti gli scaffali dei supermercati, bloccano la distribuzione, bloccano l'industria, c'è da chiedersi con quale criterio è stato affrontato negli ultimi 20 anni il problema di questo settore, da cui dipende tutta l'economia nazionale. Cioè, che babysitter abbiamo scelto e come la paghiamo? Allora, ieri è uscito fuori il rapporto della CGA di Mestre, dal quale deriva che se riescono a tenersi in tasca 800-700 euro a fine mese le aziende di autotrasporto, è già un miracolo, senza far fronte ai costi, ad esempio per rinnovare le gomme, per cambiare l'olio ai mezzi. Ultimo dato che mi sembra molto importante: a fronte del 90% affidato alla gomma, la quota per gli autotrasportatori italiani, che sono quelli, pare, che sono gli unici costretti a viaggiare rispettando la legge sulle nostre strade, è precipitata. Sulle esportazioni dall'Italia verso i paesi UE, l'autotrasporto italiano partecipa a meno del 25%, era il 32% un anno fa. per l'import è sotto il 12%. Sulle strade italiane noi abbiamo una miriade di autotrasportatori, certo che costano poco, ma dei quali non dobbiamo poi stupirci se succedono degli incidenti mortali sulle strade. Questa la chiamerei la sindrome della babysitter. Non so se sono stato chiaro. No, è stato chiaro, però io su questo continuo a non capire. Se Anita, sono solo le grandi imprese, qualche migliaio di grandi imprese di trasporto, Anita è la sigla che è iscritta a Confindustria. Se Comtrasporto, e qua iniziamo già a essere più di 30.000 iscritti, se la FITA CNA, anche qui 30.000 iscritti e più, se Confartigianato Trasporti, anche qui 30.000 iscritti e più, Federlavoro e Servizio, questa è quella di Conf Cooperative, qui sono 5.000 cooperative, Lega Coop Servizi, quasi 2.000 cooperative, se tutte queste non sono d'accordo e Trasporto Unito invece dice invece sì, non va bene quello che abbiamo sentito dal governo e c'è nel decreto, e cerchiamo di entrare nel merito, perché il governo dice: ma come, noi vi abbiamo dato un abbattimento rispetto all'aumento del costo carburante eccetera eccetera, perché non vi va bene e non vi basta? Allora, questa è la mia domanda a Maurizio Longo. Dopodiché il mio giudizio anche in questo caso è chiaro: se noi tra il 2008 e il 2012 la voce di maggior rincaro qua è il carburante, visto che il gasolio di autotrazione ha fatto più 55% dal 2008 al 2012, poiché lo Stato, è inutile che racconti balle, il peso rilevante della sua accisa, siamo come al solito agli effetti dello Stato ladro, perché questa è la mia secco giudizio. Dopodiché ci possiamo dividere tra categorie dell'autotrasporto che dicono viva i prefetti perché bisogna assolutamente impedire i blocchi, e devo dire che su base legalitaria io non posso che essere su questa posizione, ma la responsabilità dello Stato che fa finta che siano gli altri a aumentare i costi quando è lui che li aumenta e lui non ti paga mentre prende solo per sé con l'accisa e con le tasse, questo tanto per cambiare ancora una volta abbiamo la percentuale più elevata di responsabilità, è la sua. Questo per farvi capire a casa quanto lo Stato c'è sempre, c'è soprattutto quando non si vede, ed è quello che vi frega per primo, malgrado vi dicano coi titoloni ancora oggi sugli evasori fiscali l'esatto contrario. So che molti di voi non sono d'accordo, ma siccome io vedo che su quel 55% la voce che determina e pesa di più è lo Stato e quello che prende, è inutile che ce la raccontiamo diversamente. Longo, allora, come risponde a chi anche nelle altre sigle dice: ma in fondo il governo ci aveva detto e aveva fatto già nel decreto? Sì, grazie. Intanto una premessa: noi siamo un'organizzazione autonoma, nel senso che abbiamo e rappresentiamo soltanto gli interessi delle imprese di autotrasporto, mentre le altre organizzazioni discendono, diciamo, in un contesto organizzativo che lega le confederazioni, cioè altre attività e tipologie di aziende. Detto ciò, la partecipazione anche di numerose aziende alla manifestazione di protesta in atto e che appartengono ad altre sigle sindacali manifesta un disagio. Cioè, dice che non siete affatto soli, per così dire. Certo, infatti noi siamo arrivati a 100, mi pare abbiamo superato i 150 punti di presidi con la partecipazione di anche di imprese che non sono certamente iscritte a Trasporto Unito. Allora, dove nasce questo disagio? Nasce intanto dal fatto che parliamo di una categoria che è la più indebitata di tutto il sistema economico nazionale, lo ricordava il dottor Dardeni, e le misure che sono state assunte sono due misure che non hanno e non possono portare, diciamo, soddisfazione a un'esigenza. Ricordiamo quali sono queste due misure? Ma intanto i 400 milioni messi a disposizione dell'autotrasporto da questo governo danno un'indicazione di questa natura, cioè sono 20 anni che noi prendiamo soldi dallo Stato e sono 20 anni che questo settore è sempre più destrutturato. Allora noi diciamo non più soldi dallo Stato ma soldi dal mercato, poi spiegherò anche come. No, anche perché lei capisce che su questo tutte le altre categorie, chiunque ascolti, qualunque microartigiano, microimprenditore eccetera, dice: ma questi gli danno tutti questi soldi ogni anno allo Stato, noi non abbiamo un cacchio dallo Stato, quindi questo è un punto delicato, perché la gente su questo si incazza quando gli ricordiamo tutti quei soldi di incentivi. No, non c'è dubbio, io dico che questi interventi, che se vado a fare un'operazione matematica su 400.000 veicoli industriali in conto terzi e faccio un'operazione matematica, sono 1.000-1.500 euro a camion, quando arriveranno, perché non è che arrivano in modo sistematico, e credo che questo queste cifre non aiutino questo settore, semmai non danno la possibilità a queste imprese di ottenere quelli che sono i propri diritti, perché abbiamo invece la necessità di un sistema regolatorio che ci dia e ci consenta di avere un rapporto con la committenza tale da poter ricevere il corrispettivo. L'altro aspetto che invece riguarda sempre il settore e che dicono essere soddisfacente è questo: noi abbiamo dal 2003 a oggi, diciamo dal 2003 in poi, abbiamo la possibilità di recuperare tutte le accise che il governo mette, mette sul carburante. Questa quota per tutto l'autotrasporto, che anche qua ammonta, mi perdoni, non è poco, perché il resto, molte categorie per le quali l'automobile e lo spostarsi è un bene strumentale, questa roba non ce l'ha, quindi c'è gente che dice: ma ce l'avete pure, di che vi lamentate? Però dica perché non va. Dunque, questa quota che era poca cosa fino a qualche anno fa, faccio un esempio: nel 2010 le imprese di autotrasporto hanno fatto domande di rimborso per questa parte di accise in più, hanno fatto domande di rimborso per 300 milioni di euro. Nel 2011, ricordo che siamo in uno stato fallimentare come imprese, nel 2011 noi abbiamo anticipato e dobbiamo incassare 1 miliardo e 550 milioni. Vero è che il governo ha anticipato la domanda, ma prima che arrivano questi soldi, si arriverà a giugno. Nel frattempo li abbiamo anticipati, eliminandoci una liquidità di cassa, e si fallisce per cassa e non per competenza. L'altro, appunto, il provvedimento approvato dal governo dice sostanzialmente che questa quota di rimborso può essere trimestrale. Quindi se io che compro 1000 litri di carburante e pago 1700 euro, 190 euro li potrò prendere mentre faccio la domanda a procedure burocratiche a giugno, quindi 190 euro ogni 1000 litri di gasolio, che è una quota pesantissima. Allora noi diciamo: siccome stiamo fallendo, siccome c'è un problema di liquidità, non possiamo aspettare questi tempi, perché non ce la possiamo fare. Dobbiamo semmai a monte, cioè al momento in cui acquisto il gasolio, già in fattura il commerciante ci deve decurtare questo rimborso. A noi non sembra assolutamente impossibile fare questo tipo di operazione, anche perché la domanda sul rimborso la farebbe il commerciante del carburante e non certamente l'impresa. Quindi per così dire, ciò a cui la categoria ha diritto secondo quanto disposto dal governo, renderlo immediatamente scontabile da parte del mercato, che ha i tempi e la cassa dal vostro punto di vista per poter durare di più nell'ammortamento, insomma, del trimestre che passa, rispetto a chi invece ne ha diritto pronta cassa perché non ha più possibilità di finanziarla col proprio circolante. Questo è il secondo punto, se l'ho capito bene. Eccoci tornati qua in studio. Abbiamo sentito una sintesi, una panoramica del settore, dei suoi costi, da Bruno Dardani, dell'autotrasporto di cui stiamo parlando oggi, e abbiamo con noi Maurizio Longo, segretario generale della sigla sindacale Trasporto Unito, che è alla testa, ha avuto un successo della protesta di questi giorni, e la sua replica a tutte le altre sigle dell'autotrasporto che sono polemiche e che sostengono, direi alcune, anche il governo che ricorre ai prefetti per rimuovere i blocchi, è quello di dire: voi fate parte di cartelli, di confederazioni in cui prevalgono gli altri interessi delle confederazioni rispetto a quelli della categoria, oppure siete più legati tradizionalmente alla politica che sostiene il governo. Noi no, noi non saremo magari quanti voi, però come si vede abbiamo seguito e riusciamo a interpretare ragioni vere di una parte molto sempre più estesa soprattutto dei patroncini, degli autoproprietari, che non possono più reggere questi costi, questi gravi costi, e che non sono soddisfatte dalle due cose date dal governo. Matteo Mauri è con noi, anche responsabile trasporti del Partito Democratico. Dal vostro punto di vista, le considerazioni che ci ha appena fatto Longo sul come e il perché le due cose nel provvedimento del governo, dopo l'incontro del governo con l'11, ce ne sarà un altro preannunciato, l'ha confermato anche il ministro Passera ieri sera a Ballarò. In che cosa secondo voi questi due ragionamenti non stanno in piedi, oppure comunque come si dovrebbe procedere rispetto al blocco che è in corso, Mauri? Ma guardi, innanzitutto bisogna partire dalle considerazioni che faceva il dottor Dardani, cioè è vero che c'è una categoria che è in grande crisi, da anni, per cui non solamente adesso dentro la crisi più complessiva, ed è vero che lì servono delle risposte che siano strutturali. Cioè, la categoria dell'autotrasporto, al di fuori di quelle pubbliche, è quella più finanziata dallo Stato. perché viene finanziata per circa 400 milioni all'anno da almeno 10 anni e fanno 4 miliardi. Nonostante quello, le condizioni di ogni singolo autista, autotrasportatore, dipendente o autonomo che sia, sono di grande difficoltà, perché è vero che le cifre che portano a casa ogni mese sono quelle. E adesso le cose peggiorano, soprattutto dal punto di vista dei costi del carburante, che è cresciuto. Per cui le condizioni di crisi ci sono tutte, però la domanda è: qui non è che ci troviamo di fronte all'associazione del settore che negli scorsi anni non hanno fatto nulla e sono state acquiescenti nei confronti dei governi, o magari hanno fatto più gli interessi dei committenti piuttosto che dei trasportatori, perché questo è quello che si provava a dire prima, perché gli scioperi si sono fatti anche in maniera molto dura, ricordo quello nei confronti del governo Prodi col ministro Bianchi nel 2007, fatto, come no? E l'hanno fatte le stesse associazioni che adesso invece dicono, secondo me in maniera intelligente dal loro punto di vista, non è questo il momento di queste proteste così selvagge, che rischiano di fare un danno alla categoria degli autotrasportatori, perché li mettono sotto una luce che è ingenerosa nei loro confronti complessivamente e molto pericolosa, quella degli irresponsabili. Ora, non è che le altre associazioni nazionali, la stragrande maggioranza, dice no alla protesta perché pensa che le cose vadano bene così, ma perché sanno che c'è un tavolo aperto col governo, il governo si è impegnato in maniera molto chiara e molto più chiara di quanto non abbia fatto per esempio il governo precedente Berlusconi, che non ha visto nessuna protesta, tra l'altro, no? E ha detto: andiamo a vedere le carte a questo governo. Allora, dopo cosa sono? 2 mesi, 3 mesi che c'è il governo Monti, si è detto che il recupero delle accise non sarà più annuale, e poi era anche più che annuale, ma sarà trimestrale. Ora, adesso Longo può anche chiedere che gli venga fatto la fonte, ma secondo me è già un grande passo in avanti il fatto che venga rimborsato in modo trimestrale. L'altra questione sono i costi minimi. In Italia c'è questo meccanismo di costi minimi per la sicurezza, che non è una tariffa minima, che non sarebbe possibile, ma si dice sostanzialmente sotto certi costi non si può andare, perché altrimenti se devo spedire una certa merce per certi chilometri, se lo faccio sotto quei costi vuol dire che io devo tagliare su qualcosa, tipo la sicurezza del mezzo, la sicurezza dei lavoratori, i tempi di riposo. Il governo si è impegnato per esempio a fare rispettare questa scelta, che invece in questo momento pochissimi rispettano, e soprattutto chi non rispetta, non rispettano moltissimi autotrasportatori di ditte straniere, che spesso sono anche italiane messe all'estero, oppure estere prese da ditte italiane che sanno perfettamente di poter spendere molto di meno in questo modo, ma lì si va a speculare sulla sicurezza, sulle strade e anche ovviamente sulla vita dei lavoratori. Quello abbassa tutti i livelli di retribuzione di tutti gli autisti, a partire da quelli italiani, che sono quelli che più di altri devono rispettare le regole. Per esempio, la questione dei controlli sulle strade è una cosa essenziale da questo punto di vista. Peccato che i controlli si siano ridotti in maniera drastica, perché il finanziamento alle forze dell'ordine, alla polizia stradale, a chi è deputato a fare i controlli, si è sceso in maniera drastica negli ultimi anni proprio dei governi Berlusconi. Allora io dico: andiamo a vedere tutti insieme le carte del governo. Si sono impegnati su 2 cose molto importanti che hanno un grande impatto per l'autotrasporto. Vediamo cosa si porta a casa in questa trattativa appena aperta. Fare oggi una protesta del genere significa, secondo me, farla in maniera assolutamente strumentale. Allora, noi abbiamo un diluvio di messaggi al 349-238-6666 di autotrasportatori che sostengono la protesta, tra chi mi invita a riferire del fatto che per trasporti del tutto analoghi all'interno di diversi paesi dell'Unione Europea la mole di adempimenti amministrativi delle pagine da compilare è spropositatamente svantaggiosa nel caso italiano rispetto a quello di altri paesi del tipo la Francia, a chi sostiene: guardate che non è che noi ce l'abbiamo con i colleghi di altri paesi che sono corretti e rispettano le regole, il problema non è quello di essere degli sciovinisti o di essere razzisti, il problema è semplicemente che le regole devono valere per tutti, mentre invece, come state dicendo, non è così, e quindi ci vogliono più controlli. Ci sono anche però artigiani, commercianti eccetera, che dicono 400 milioni l'anno per 10 anni anni, chi li ha visti mai? Ecco, questo è un punto di fondo, perché molti obiettano, ma non è che si vuole tentare di tenere in piedi troppe migliaia di microimprese che semplicemente, pur avendo il 90% del nostro trasporto tutto su gomma nel nostro paese, non hanno evidentemente gli spazi più per stare sul mercato? E questa è una domanda di fronte alla quale, ohimè, torneremo a confrontarci. Allora, adesso noi abbiamo esattamente le informazioni sul traffico e poi qualche telefonata e ancora un giro dei nostri ospiti. Mentre riparte The End of the Doors, tantissimi messaggi davvero di altri autotrasportatori, molti dicono qui la verità che poi oramai sempre di più viaggiamo vuoti e a nostro carico, riferite dei costi pazzeschi del Black Box, del Sistri, il sistema per la tracciabilità di quello che dovevamo portare quando erano merci a rischio, o un pacco di centinaia di milioni di spese pubbliche in un sistema che non è andato da nessuna parte. Altre che invece chiedono ma quanto margine è possibile di evasione con una cosa di questo tipo? Beh, certo, quando si fa l'autotrasporto e la quantità di bolla che uno deve fare e così via, evadere è molto molto più rischioso che per altri. Sentiamo rapidissimamente alcune telefonate che ci sono arrivate. Cominciamo con Francesco che ci chiama dalla provincia di Venezia. Buongiorno Francesco. Buongiorno, grazie mi date l'opportunità di intervenire. Io sono un autotrasportatore, in questo momento sto lavorando, non ho aderito allo sciopero, anche perché qui in Veneto e Friuli brocchi non ce ne sono, per cui si può lavorare in tranquillità. Volevo un attimino contraddire un attimino i media che in questi giorni e nelle varie trasmissioni radiofoniche ci hanno un attimino... come si può dire, abbastanza massacrato, diciamo, massacrati con varie notizie e anche da qualche associazione consumatori che in fin dei conti ci hanno detto ma cosa vogliono questi trasportatori, che ogni qualvolta è lei che dice invece aumentano, esatto, aumentano, magari aumenta il gasolio, noi troviamo sempre i prodotti nei scaffali alla fine aumentati. Invece non ho mai sentito dire anche da qualche presidente dei nostri sindacati che siamo arrivati in queste condizioni, perché dal giorno che c'è stato il cambio lira-euro tutti i costi gasolio sono raddoppiati. Ma quindi posso dire, le chiedo solo una risposta secca, secondo lei insomma la protesta, lei sta lavorando, però la protesta è giusta? Fatta così. Per me alla fine sì, perché noi, se mi lasci un attimino, due minuti. No, due minuti per... no, 30 secondi. No, 30 secondi, in pratica volevo rassicurare l'opinione pubblica che noi, quando ci hanno fatto il cambio lira-euro, le famose 300.000 lire per un trasporto locale, a noi oggi come oggi, tuttora oggi come oggi, a distanza di 10 anni, ci danno 155 euro. Eh beh, però guardi che sono in molti nel cambio a lamentare cose analoghe, insomma, 10 anni fa. Giovanni da Reggio Calabria, prego, rapido, che pensa Giovanni? Buongiorno, io sostengo, sono un cittadino, non sono un autotrasportatore, quindi uso la macchina regolarmente per portare i bambini a scuola, questo è il disagio alla fine che subisco. Comunque sono d'accordo con la protesta che stanno facendo gli autotrasportatori, perché stanno protestando anche per noi alla fine, se vogliamo ricordarlo, perché la gente comune che vive di stipendio regolare, cioè alla fine 2 euro al litro la benzina ci sta massacrando. Stiamo portando... Vede, questo è interessante, non autotrasportatore che dice protestano anche per noi. Antonino da Milano che dice invece? Buongiorno, niente, lasciamo stare le polemiche, volevo solamente dire solamente una cosa. Il mio capo, essendo che noi abbiamo fatto tanto la Francia, facevamo gasolio nelle stazioni, diciamo una società compagnia che in Francia è AS24, che c'è solo perché camion. Che adesso si è allargata anche qua in Italia, noi la facciamo qua in Italia alla S24, dove i contributi e ogni fine fattura arrivano già dalla Francia, e non c'è che qua in Italia ogni volta fai la domanda, fai la richiesta, fai quella e i soldi non arrivano mai. Ah, quindi lì l'esempio è di come si fa direttamente alla fonte, quindi il contributo, come chiedeva Longo. Danilo da Torino ancora rapidamente. Salve, grazie per l'ospitalità. Provo a dire due cose brevemente. La prima, che comunque sia state facendo adesso informazione, riguarda i blocchi, quando comunque già su internet già l'avevano detto anticipatamente, nessuno ha mai dato peso a questa cosa qua, perché come al solito siamo sempre l'ultima ruota del carro. Volevo dire una cosa, io non sono un addetto ai lavori, sono un autista, non sono un padroncino, non ho un'azienda. Allora, le aziende in questo momento sono nel collasso, Logicamente, per andare avanti nel collasso, si rivalgono su di noi operatori del settore. Si rivalgono sul fatto che, come vede, io oggi sono sul camion, non posso aderire allo sciopero, perché comunque mi è stato detto di lavorare, perché sennò altrimenti le cose, cioè, altrimenti non escono comunque a pagare, a darci lo stipendio. I guadagni, le aziende che danno il lavoro ai trasportatori, allora, fino a qualche anno fa, magari i prezzi c'erano, poterci, cioè i nostri. Il margine c'era, lei dice, adesso il margine non c'è più. Non c'è più, perché i costi di esercizio sono aumentati, vedi un gasolio e vedi tutto. Grazie Danilo, io devo tornare per l'ultimo minuto per chiedere però a Maurizio Longo, giudizio finale su come si mettono le cose adesso, quanto lungo ancora i blocchi, col governo cosa chiedere e che cosa otterrete. Beh, io, il programma prevede di arrivare fino a venerdì, le questioni che sono sul tavolo sono sostanzialmente due, una parzialmente affrontata che è quella dei costi, l'altra invece è legata a ciò che diceva Mauri, e cioè al sistema regolatorio dei costi minimi, dei tempi di pagamento eccetera, norme dal bel titolo ma scritte in modo tale che queste norme non possono essere applicate, quindi noi chiediamo un intervento immediato sul sistema regolatorio, non chiediamo risorse economiche perché riteniamo che debba essere il mercato a riconoscere il valore del lavoro. E questa mi sembra la miglior risposta a chi dice rispetto ai troppi contributi pubblici presi fin qua. Io spero che tutti gli autotrasportatori abbiano riconosciuto il fatto che non abbiamo fatto informazione dandovi la parola, e ho fatto pesare il meno possibile l'opinione sia degli altri di chi obietta, sia del partito di chi dice legalità e spazziamo via le cose. Comunque, grazie ai nostri ospiti, appuntamento a domani.